Hai perso la festa del secolo perché avevi sonno. Quando l'Italia ha vinto i mondiali tu eri in bagno. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Solo a gennaio Nissan Juke è tuo da 17.900 euro con eco incentivi più eco bonus rottamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Carissimi amici di Runtime, benvenuti a questo nuovo episodio di Everything, un episodio che avrebbe dovuto essere live, come tantissime persone che già ci stanno scrivendo, ma la live, che purtroppo non sarà live, per motivi tecnici che è ancora misteriosi, e poi probabilmente spero, insomma, entro stanotte di riuscire a risolvere per ovviamente le prossime occasioni, perché chiaramente, come voi sapete, noi stiamo facendo una, se non due live al giorno. È l'impegno che Runtime si è presa da un po' di tempo a questa parte, proprio per cercare di risolvere il problema del farsi compagnia, dello stare insieme, dell'essere, insomma, in qualche maniera uniti, e cercare di non pensare a quello che è comunque un momento abbastanza difficile per la nostra generazione in particolare, che probabilmente è la prima volta che vive un disagio abbastanza importante come questo. Ciao Michela. Ciao a tutti, bentornati ascoltatori di Runtime, di Everything. Sì, questo è un momento veramente particolare, mai visto, essenzialmente mai visto. Grazie a cielo, insomma, anche perché sarebbe un po' drammatico. Sì. Abbiamo parlato molto durante questo periodo di come noi stiamo affrontando questa questione, abbiamo cercato di raccontare un po', anche sdrammatizzando, abbiamo cercato di anche di distrarci un pochino, però poi è giunto il momento di cominciare a guardare anche un po' al di fuori, no? Verso l'Europa, vedere che cosa succede negli altri paesi. E oggi noi iniziamo col Regno Unito. Inizio presentando uno dei due ospiti per cavalleria, inizio da una persona con la quale abbiamo avuto già una conversazione e ci eravamo lasciati con una speranza che però si è infranta malamente, si è infranta in un modo brutto proprio, però vabbè, poi ognuno la pensa e la vede come vuole, e c'è Ilaria DS, ciao! Ciao a tutti! Abbiamo fatto quella fantastica puntata facendo le corna sulla Brexit in ogni modo, ma poi alla fine è andata. Sì, visto com'è finita, vabbè. Ci abbiamo per un attimo, ci avevamo quasi sperato, no? Che invece poi alla fine le elezioni sono state implacabili, insomma i laburisti hanno vinto a man bassa, e quindi a quel punto i conservatori, hai ragione, sì. Faccio confusione, magari dura dirlo, è dura ammetterlo, però sì. Che stiamo guardando The Crown, quindi ci confondiamo. Sì, no, perché adesso eravamo arrivati alla puntata del governo Wilson, quindi sono un attimo così, poi dopo alla fine ho fatto un po' di confusione. Sì, abbiamo assolutamente i conservatori, e quindi ovviamente questa operazione che loro avevano messo in corso, in azione già da un po' di tempo, anche con referendum, quindi anche volontà popolare, è stata conclamata anche da un ulteriore suffragio, quindi insomma alla fine il discorso sta lì, insomma. Il secondo ospite invece è un giornalista sportivo, ma pur sempre un giornalista, che poi, perché lei, i giornalisti sportivi non sono giornalisti, anzi è un giornalista, è una persona molto puntuale, molto precisa, molto analitica, è della Lazio, quindi questo per me è un fattore assolutamente di un'importanza quasi cruciale, ed è Vittorio Campanile. Ciao Vittorio. Ciao a tutti, buonasera. Benvenuto Vittorio, per la prima volta con noi. Io Vittorio lo conosco perché seguo il suo canale YouTube, quindi cercate su YouTube Vittorio Campanile se siete appassionati di calcio, in particolare se siete tifosi della Lazio, però anche se siete appassionati di calcio in generale, insomma, seguitelo e andate lì, fate l'iscrizione con la campanella, così vi arrivano pure le notifiche. Tieto, ho fatto pure sta bella imbeccata, insomma. Ragazzi, prima di tutto una cosa importante: come state? Ilaria? Io bene, ti dirò, questa quarantena non mi dispiace, quindi per ora non ci sono ancora segni di scompensi fisici o mentali, poi va bene, quindi tutto bene, grazie. E Ok, Vittorio. Si resiste, che dobbiamo fare? Stiamo qua, si lotta ogni giorno. Sì, che poi quindi, la prima domanda che mi viene da farvi, poi vabbè c'è un ordine, abbiamo fatto, se poi dopo andiamo anche un po' a casaccio. La prima domanda che mi viene di farvi, Vittorio, partendo da te, tu poi stai a Leeds, quindi e Ilaria sta a Londra, se non sbaglio, no? Quindi insomma... Sì, ok, cioè voi avete iniziato, diciamo, a cautelarvi prima che comunque magari arrivassero dei primi provvedimenti da parte del governo inglese, oppure vi siete, diciamo così, adeguati all'ultimo, insomma, quando sono appunto sono arrivate le varie decisioni? Vittorio. No, noi ci siamo adeguati un po' prima, diciamo, nel senso che, vabbè, avendo i familiari in Italia, vedevamo la situazione e ovviamente pensavamo che sarebbe successo anche qua, anche perché credo che il primissimo caso in Inghilterra fosse qua vicino a York, di non mi ricordo se un inglese o un cinese arrivato dalla Cina e risultato positivo al coronavirus, era York, quindi un'ora di macchina da qua. Per cui insomma noi eravamo abbastanza convinti che sarebbe successo anche qua. Venerdì, adesso venerdì di due settimane fa sono state chiuse le scuole, lunedì scorso sono state chiuse le scuole, noi già venerdì non abbiamo mandato i nostri figli a scuola, per cui diciamo che noi ci siamo emarginati un po' prima del resto del gruppo. Tu, Ilaria? Sono d'accordo, nel senso che avendo comunque il doppio canale di informazione dall'Italia c'è stato un periodo di forte dissonanza cognitiva, per cui dall'Italia si sentivano queste news di tutto quello che stava succedendo, invece qui era presa con tantissima leggerezza, per cui eri in una situazione in cui non, almeno io non volevo fare le cose, non volevo mettermi a rischio, mi rendevo conto che stesse arrivando un meteorite e la gente non si rendeva conto, quindi in qualche modo ho cercato di mettermi a riparo prima per i diritti. Il 14 ad esempio, in cui dovevamo suonare per una serata, abbiamo deciso di annullare, però lottando tantissimo contro gli organizzatori, perché dato che non c'erano direttive governative sembrava quasi come se stessimo esagerando, che stessimo creando un problema laddove non esisteva, invece poi eccoci qua, siamo tutti chiusi in casa dopo una settimana. Quindi sì, è iniziata prima per me la quarantena rispetto al Regno Unito e credo che gli italiani un po' abbiano condiviso questo feeling, come mi conferma anche Vittorio. Ok, quindi ci colleghiamo alla domanda successiva che volevamo farvi. Quali sono i rapporti con le vostre famiglie in Italia? Come state gestendo le comunicazioni tra di voi? Essendo comunque voi fuori dall'Italia e avendo comunque l'Italia un paese diciamo che adesso vabbè la pandemia è totale, però è comunque il paese più nell'occhio del ciclone degli altri rispetto agli altri, insomma. Ilaria. Vado io. Vabbè, ovviamente i contatti con le famiglie si sono intensificati nel senso digitale, ma in realtà un po' i contatti con tutti, ormai non c'è più la scusa, non ci sono, siamo tutti qua, dobbiamo sentirci tutti. Diciamo è dura, nel senso c'è tanta preoccupazione in realtà, e ovviamente io sono preoccupata per la mia famiglia in Italia, la mia famiglia è preoccupata per me, quindi si intensificano non solo in termini di quantità, ma anche il livello di contatto, la voglia di sentirsi. Grazie che ha qualcuno che si preoccupa di te, però. Oh, c'è il lobby frontali qua. Questa è tipo una carambata di quelle tipo dei podcast di Rantana. Oramai questo sta succedendo. Devi sapere, Ilaria, che nelle ultime settimane succede che io sto tranquillo, però prendono boom e mi buttano tipo in delle dirette. Dentro le trasmissioni, esatto. Così, perché tu sei un po' l'intelligenza, capito? No, prima mi buttano negli autobus a mezzanotte e poi mi buttano quella è una storia che un giorno. Negli autobus a mezzanotte, vabbè, poi questa me la racconti, ci sentiamo. Ma soprattutto prima la torta al cioccolato e poi l'autobus. giusto. Beh, poi la raccontiamo dopo. La raccontiamo dopo. Vittorio, invece tu come tipo contatti, appunto, ovviamente penso scambi delle preoccupazioni, com'è la situazione, come stanno? Beh, io avendo vissuto tanto a Milano ho molti amici là a Milano dove la situazione è abbastanza grave, anche amici a Bergamo dove la situazione è disperata. I miei per fortuna sono a Roma e io li sento tutti i giorni per raccomandarmi, soprattutto a mia madre, di non uscire di casa, anche se per lei è una sfida quasi impossibile. E ovviamente c'è preoccupazione anche perché i miei sono abbastanza anziani e provo a convincerli a non uscire, non so quanto ci riesco, però fino adesso stanno ancora abbastanza bene. Ok, no, perché poi in realtà sì, questa è un po' la sfida dell'ultimo, cioè di questo periodo qua, perché noi comunque in qualche maniera adeguandoci a un certo tipo di discorso ci rendiamo conto quanto quel poco che usciamo, perché noi facciamo un lavoro essenziale, no? Cioè uno di quei lavori che purtroppo non possiamo interrompere, e ci rendiamo conto che secondo me quel 15% della gente non ha capito il problema, cioè non lo ha capito, no? E questa è la cosa. Infatti la domanda che vi faccio a tutte e due, partendo da Vittorio e poi Ilaria, poi Francesco tu se vuoi inserisciti quando vuoi, fai domande se hai comunque delle curiosità o roba del genere. Certo. Che tipo di percezione avevate voi nelle settimane passate rispetto alle informazioni che ricevevate, magari vedendo, insomma, quando la cosa ancora non aveva toccato, diciamo, il Regno Unito? Beh, la cosa è che è un virus che attacca soprattutto quelli un po' più anziani, per cui per questo era la mia grande preoccupazione per i miei genitori. E qua ancora non è arrivato, ma qua credo fino almeno settimana scorsa, forse due, molti erano convinti che era veramente una semplice influenza che si prende e amen. Ancora adesso qua c'è gente che sottovaluta, a mio avviso, il pericolo. La mia vicina di casa, adesso ho perso il conto dei giorni, che è venerdì o sabato, ha invitato un amico a casa, sono rimasti fuori a distanza, però i bambini giocavano insieme, per cui ho l'impressione che alcuni non capiscono la gravità della situazione, mentre altri, per esempio il mio vicino dall'altra parte che ha amici in Italia, in particolare al Lago di Garda, ha ben compreso la gravità della situazione, per cui sai, purtroppo qua si basa anche sull'esperienza personale. È un po' così, sono rimasto un po' sorpreso da questa reazione, perché di solito io quello che ho visto è che gli inglesi di solito da questo punto di vista sono abbastanza attenti. Secondo me è stata sottovalutata tutta Europa sto problema, ovviamente. Poi vabbè, vediamo un attimo, lo approfondiamo dopo. Ilaria, invece tu che percezione ci avevi nelle settimane passate, prima che cominciasse, diciamo, ad arrivare il segnale d'emergenza, quando secondo me già c'era comunque, però vabbè. No, è assolutamente uguale, nel senso c'è una forte dissonanza da quello che io pensavo, quello che ascoltavo dall'Italia, quello che ascoltavo qui, e che tuttora in realtà, se vai a fare la spesa con la mascherina quasi sembri un alieno, ancora adesso molti dei negozianti qui a Londra non indossano nessun genere di mascherina, non assumono ancora precauzioni, al di là delle grandi catene come Lidl o altri grandi supermercati non c'è per esempio una cura della fila, per cui non c'è spazio dalle persone, non c'è tutta l'attenzione che io credo. Sento? Ilaria? Io non la sento. No, ci siamo persi l'aria. Vabbè, no. Eccola, vai. Scusa. No, abbiamo sentito tutto tranne l'attenzione. Ok, non c'è l'attenzione che io credo dovrebbe esserci, yeah. Assolutamente. E particolarmente a Londra, che voglio dire è una bomba, un po' come New York, dove c'è un agglomerato umano che è difficilmente immaginabile, dovrebbe esserci tanta più attenzione rispetto a quella che si è visto, però sì, al momento non c'è nessuna sorta di panico, ma io credo che ci sia anche un diverso modo di comunicare la situazione. Evidentemente sì. Sì, perché quando io guardo le news del Regno Unito e le news in Italia è proprio completamente uno scenario differente, nel senso noi italiani siamo molto focalizzati sugli aspetti negativi, siamo ipercritici in qualche modo, invece qua in UK cosa apro, se scrivo coronavirus UK non è che la prima notizia è il numero di morti, il numero di infetti, la prima notizia è arriveranno tot numero di test in 3 giorni, sarà sviluppato il vaccino in 6 mesi, quindi ti mettono tutta una serie di notizie positive, cercano in qualche modo di trasmettere molto di più le notizie positive o che potrebbero essere positive piuttosto che il fatto che gli ospedali stiano soffrendo, che Poi li perdiamo ogni tanto, però abbiamo comunque compreso un po' il discorso, che poi, cioè, secondo me se un inglese oggi viene in Italia è come se un americano andasse ancora al nord, cioè praticamente cioè, lo scenario comunque complessivo di quello che ci abbiamo noi intorno oggi, con tipo di restrizioni che siamo veramente molto borderline anche a livello democratico, no? Perché comunque noi oggi non abbiamo la nostra libertà individuale, no? Quindi c'è comunque la Spagna che sta facendo peggio. Però per esempio qua a Leeds io nell'ultima settimana ho notato una differenza abissale, nel senso che vabbè, a parte le scuole chiuse eccetera, ma hanno chiuso tantissimi negozi. L'altra settimana sono dovuto andare dall'ottico per prendere il mio liquido per le lenti e la strada era deserta. Ho parcheggiato per la prima volta nella mia vita davanti all'ottico, dove di solito ci sono 1000 macchine. Non sono entrato perché la porta era chiusa, ho dovuto suonare e quella mi ha detto qual è il suo cognome e mi ha portato la bustina fuori dal negozio, me l'ha appoggiata per terra perché tutto... Per cui, ripeto, poi c'è il cretino che va a fare la passeggiata, eccetera, eccetera. Però devo dire che qua l'effetto si vede. Poi bisogna essere onesti, Londra c'è un milione di persone eccetera, qua io sono in campagna per cui sai, per fortuna il contatto è molto ristretto. Sì sì, no, infatti vabbè, quello è, infatti le catombe per esempio in questo momento a New York, no? New York per esempio è una città che in questo momento sta risentendo in una maniera folle, cioè dell'impatto, come inevitabile, perché quando si tratta comunque di zone cosmopolite con un giro così frenetico sia dei merci che di persone, insomma era inevitabile che sarebbe successo. Io ho visto i dati di oggi, non so se sono aggiornati, è solo l'area di New York sono quasi 60.000 casi, in Italia abbiamo raggiunto i 100.000 in totale, inclusi i morti, i guariti solo oggi. In un mese di tamponi, cioè nel senso loro è una settimana che stanno a fare i levamenti. Per esempio qua però sono 9.000 e venerdì erano 6.000, per cui infatti dicono che i numeri non sono cresciuti come temevano, tant'è che il sistema sanitario per fortuna sta ancora reggendo, poi vediamo come va la situazione. Sai che in Italia c'è una grossa polemica sul fatto delle rilevazioni, no? Cioè tutti quelli che dicono da noi ancora non è arrivato è perché non stanno a fare i tamponi, perché insomma quello è quello che si suppone, addirittura si dice che il virus in Italia è di terza generazione, quindi cioè nel senso non è manco l'opera fresca, diciamo così, insomma, quindi è un po' una cosa un po' particolare, diciamo che è una scelta politica che le varie nazioni stanno facendo. Infatti Michela... No, Ilaria stava dicendo qualcosa. Scusa. No, stavo dicendo no, infatti il modo in cui campionano qui non è molto chiaro, perché i tamponi vengono fatti, per quanto io ne sappia, soltanto a chi è già ospedalizzato, per cui è già chi è in condizioni gravi, e il numero di morti rilevato riguarda solo delle persone morte in ospedale, per cui c'è tutta una serie di dati che non sono completamente rilevati, non vengono completamente ricostati, sono... Per ogni paese sta assumendo un po' i suoi particolari standard di test, come dicevate voi, quindi i numeri lasciano purtroppo il tempo che trovano, potrebbero essere molto informativi se raccolti in maniera corretta, però... Ma sai, questo poi lo possiamo dire anche, cioè, ovviamente in Italia l'impatto c'è stato proprio perché è stata fatta una scelta del tamponamento a campione su vasta scala e alla fine comunque questo è il risultato, no? Poi i risultati secondo me ce li racconterà la storia un giorno, perché un giorno questa storia finirà e quando finirà chiaramente avremo fra 10 anni, fra 15 anni avremo forse la mente più cioè avremo comunque più chiaro quello che è successo, storicizzando anche la cosa, cercando magari di dare anche un'interpretazione al modo in cui poi si è propagato, perché in Italia comunque c'è questa anomalia assurda della Lombardia e del Piemonte e del Veneto, e il resto d'Italia più o meno, no? Nel senso, anche Emilia Romagna, dai. Anche Emilia Romagna, infatti. Bergamo, però per esempio, adesso ne stanno discutendo molto, visto che è un po' il mio ambito, e molti dicono a Bergamo c'è stato il numero più alto perché nel momento più importante dell'infezione c'è stata Valencia-Atalanta e i tifosi d'Atalanta si sono tutti andati al pub a vedere la partita, hanno festeggiato dopo la qualificazione, e infatti il tasso di infetti a Bergamo è altissimo. Per cui, sai, la storia ci dirà che quello è stato un errore. Tant'è che la grande domanda che ci facciamo noi qua in Inghilterra è: gli inglesi, Boris Johnson ha aspettato o è andato in anticipo? Perché si dice che l'Inghilterra era 14 giorni dietro rispetto all'Italia. Beh, bisogna vedere se le scuole inglesi hanno chiuso prima rispetto all'Italia o dopo. Perché, come dico qua, la situazione ormai è una settimana che le scuole sono chiuse e il primo ministro ha già annunciato che le scuole non riapriranno, mentre in Italia mi sembra che questa decisione non è ancora definita. No, è stata presa. È implicita, ma... È stata presa che comunque l'anno scolastico è chiuso, cioè è finito. Non è stata ufficializzata, però il ministro delle istruzioni ha comunque... Qua, tra il suo dubbio, è mio figlio che voti prende alla maturità. Vabbè. Ma gli ospedali... Adesso non sono, parlo qua dell'Inghilterra, non sono stracolmi, perché come diceva oggi siamo a 9.000 persone in ospedale ricoverate, non morti, ricoverate, e quindi la situazione è abbastanza gestibile. Adesso il problema sarà: abbiamo raggiunto il picco? Non credo, ma la situazione sarà sotto controllo o andrà a peggiorare? Vabbè, allora guarda, io mi sono fatto un'idea su questa tua domanda, questo tuo ragionamento, perché poi in realtà tu dici l'Inghilterra ha ragionato in anticipo o in ritardo rispetto all'Italia. Allora, l'Italia secondo me non ha ritardato determinati interventi. Il problema è che chi era all'esterno e ha potuto verificare qual era poi l'impatto comunque, e quindi quelli che potevano essere gli anticipi degli interventi, a quel punto non è se si anticipano rispetto all'Italia, ma si anticipano rispetto all'esperienza. Io vedo che è un po' un discorso, è un po' particolare, perché la Spagna... Forse la Spagna è stata presa un po' in contropiede, no? Però comunque nazioni come il Regno Unito, che comunque hanno un traffico commerciale importante, non possono pensare che non arrivi un impatto importante come negli Stati Uniti, come in Italia o come magari sta in Germania, che poi bisogna vedere quello che ci raccontano in Germania sui dati loro, perché c'è sempre questa è un problema che se si è sviluppato così in Italia, indipendentemente dagli interventi e da quanto siamo stati lenti, è comunque l'impatto è importante. Stiamo parlando di un virus che ha un'infettività praticamente in pazzesca, al di là dell'effetto con 0 è di oltre 3, cioè una persona può infettare 3 persone virgola un braccio, tipo, secondo il dato, cioè la misura che viene utilizzata, il cosiddetto R con 0, cioè che stiamo bene se stiamo al di sotto dell'1. Ora in Italia non so con le misure che hanno attuato adesso attualmente quanto si continua, però secondo me lo vedremo un po' la prossima settimana, cominceremo a vedere i risultati, secondo me, spero perlomeno. Però vabbè, oggi comunque c'è stato un bel dato, nel senso che comunque il numero dei contagi si è dimezzato rispetto a ieri, quindi sì, però è un pochino, lascia il tempo che trova a vedere i dati giorno per giorno comunque, certo. Per quanto sia, vediamo che è rincuorante, sì, però comunque meglio sempre fare qualcosa di aggregato dopo, tenere un lasso di tempo maggiore, soprattutto sì, anche per chi ha parlato di un virus che c'ha l'80% della asintomaticità, no? Quindi cioè, nel senso che l'80% degli infetti sono asintomatici, quindi in realtà tu non c'hai un numero reale di quello che è. No. Quindi sai, questa è una cosa che vedremo a lungo termine. Comunque Michela, vai con la quarta domanda. Io ragazzi volevo intanto capire qual è attualmente la politica del governo britannico, a parte il lockdown, quali sono gli incentivi, come è successo qua, messi a disposizione tra virgolette per tutte le categorie che comunque rimarranno ferme, quindi senza senza eventuale reddito, operai, negozianti, ristoranti, ristoratori, pub, eccetera, e professionisti come voi. Vai con Ilaria. Sì, ragazzi, volevo un attimo spezzare la lancia in favore dell'Italia sul fatto di intervenire prima o dopo. Purtroppo l'Italia è stata la prima, cioè nel senso ha avuto un bel culo di essersi trovata. La prima dopo la Cina, sì. Diciamo così. Sì, vabbè, ma la Cina, tu la immagini, insomma, è la Cina, non è che è immediato, sì, sì, l'Italia. Hanno chiuso 50 milioni di persone dentro un recinto e hanno risolto il problema, cioè, è chiaro. Vabbè, diciamo, come nessun altro paese d'Europa si era preoccupato più di tanto rispetto a quello che stesse accadendo in Cina, così non si era preoccupata l'Italia. Poi ovviamente ti trovi con l'incendio in casa e non sai esattamente subito cosa fare. Gli altri paesi, come diceva giustamente Simone, avrebbero dovuto affrettarsi un attimo prima ancora di raggiungere picchi, non picchi, di parlare di immunità di gregge e cose del genere. Per cui rispetto alla tempistica, non, secondo me il paragone con l'Italia lascia un po' il tempo che trova, perché poverini, cioè, ho capito che ci piace darci delle... prenderci e fustigarci per quanto siamo a volte sì, ci piace fustigarci per quanto non facciamo bene le cose, però poi ogni tanto bisogna dire che siamo stati anche, che a volte non siamo nelle condizioni, non siamo stati nella condizione di fare, infatti io non mi sento di essere critico in questa specifica situazione, cioè, faccio mea culpa da italiana fino a due giorni prima del lockdown io stavo a cena con gli amici a sushi, diciamo la verità, no, a casa però ma ricordo quella sera, ma ricordo sì. Veniamo alla politica del governo Johnson. Tornando alla domanda, io in realtà sono un po' confusa su questa cosa, io tra l'altro ho una, diciamo, l'equivalente alla partita IVA, per cui mi sto cercando di capire un po' come funziona, perché il lavoro è fermo. Se ho capito bene, daranno l'80% la possibilità alle aziende di dare l'80% degli stipendi alle persone che non stanno più lavorando. La cassa integrazione. Sono spiegati, sì, però non, sì, però non mi è ancora chiara questa cosa, forse Vittorio ne sa più di me, però sì, insomma, si stanno attivando, parlavano di dare una sorta di, come si dice, sick leave a chi ha la partita IVA, per cui come una malattia, come un periodo di malattia, o comunque di scalare dalle tasse la dichiarazione dei redditi, insomma di venire incontro in maniera indiretta, però insomma ancora è un po' fumoso per me. Ok, a Vittorio allora, che c'è sicuramente magari mi illumina, te l'hai studiata meglio. Beh, bisogna dire che forse la più grande differenza è questa, è che il Regno Unito ha a disposizione più liquidità e quindi già la scorsa settimana, se non sbaglio, Boris Johnson aveva annunciato interventi massicci per le società, che aveva detto, ha bloccato per esempio i mutui in Inghilterra, puoi tranquillamente bloccare il mutuo della tua casa, fondi, prestiti a tasso zero per le aziende, e poi oggi il mio commercialista mi ha girato questa qua, per cui praticamente il governo ai liberi professionisti ti garantisce l'80% di sconto sulle tasse per i tuoi prossimi profitti, per i prossimi anni, se non superi 50.000 euro. Ovviamente se dovessi perdere il lavoro, non fatturare come credo purtroppo molti di quelli a partita IVA, chiamiamolo così, ci dovrebbe essere uno sconto ulteriore dell'80% sulle tasse, per cui da questo punto di vista qua sono molto efficienti, per cui le aziende, i singoli, quelli a partita IVA sono aiutati in modo importante. Qua dice che sarai contattato direttamente te, quindi non devi fare niente, loro valuteranno se rientri in questa categoria. Ovvio, l'impatto c'è stato per tutti purtroppo, perché ovviamente si è fermato tutto, dai ristoranti a tutte le attività che non sono primarie. L'unica cosa da dire è che le scuole sono chiuse ad eccetto di quelle persone che svolgono quei ruoli fondamentali come i medici e i dottori, che purtroppo non possono tenere a casa i bambini, hanno diritto alla scuola e quindi le scuole sono aperte per i figli dei poliziotti, i medici, i figli dei medici, eccetera, eccetera. È un po' una contraddizione questa cosa, no? Cioè, nel senso... però comunque... dove li tieni? Lo so, è quello dove li tengono sì. Quelli italiani, per esempio. In Italia c'è stato un bonus babysitter di 1000 euro per i figli dei medici, infermieri e operatori sanitari in generale. Non so per i poliziotti, questo non lo so, però sono sicura che per i medici c'è stato, c'è questa richiesta. Cioè c'è questa possibilità di fare la richiesta, proprio perché comunque i ragazzi... E in realtà stanno seguendo i corsi online, quindi comunque proseguiranno con la scuola. Non posso capirlo online. Perché è un po'. No, vabbè, però comunque. Teoricamente è così, ok. Cioè nel senso... In teoria è questo, ma noi non abbiamo parenti che comunque lavorano in quell'ambito, quindi non sappiamo verificare se quei soldi gli verranno comunque dati, però il fatto che comunque i bambini non devono tornare a scuola e ci si è preoccupato per quello. Sì, che comunque il discorso del babysitter viene equiparato al lavoro essenziale, quindi è l'unico che si può spostare, perché comunque ricordiamo che in Italia comunque se non c'hai una corretta motivazione non puoi uscire di casa, quindi questo è... Ci stanno le autocertificazioni in Inghilterra? Questo sì. No! Ma se... questo sarebbe divertente, siete fortunati allora. Noi... Vabbè, ma stiamo impazzendo dietro le autocertificazioni. Spero che non ce ne sarà mai bisogno, ragazzi, perché veramente la situazione è complicata. E consideriamo il nostro, che è un paese che da solo ha stanziato 50 miliardi di euro così a sbafo, che probabilmente non rivedremo mai e che ci costerà nei prossimi decenni, perché questa è una cosa che ci costerà. E noi con Ilaria tante volte abbiamo parlato del discorso dell'Unione Europea, dell'importanza di far parte di una comunità più importante, eppure paradossalmente da europeista mi trovo a dire che l'Europa sta perdendo quell'occasione importante per poter essere veramente quello che poteva. Vabbè, non è detto. Così, vediamo purtroppo. Che succede. Oggi Gentiloni l'ha detto chiaramente il fatto che comunque non, cioè, questa esperienza può segnare veramente la fine dell'Unione Europea, e questo è un dato che storicamente dobbiamo comunque mettere un attimo in considerazione. Cioè, ragazzi, voleva dire qualcosa? Vittorio voleva dire qualcosa, sì. Sì, che purtroppo c'è ragione, insomma, io da europeista e da persona molto dispiaciuta della Brexit devo dire che purtroppo l'Unione Europea, non dico che ha fatto una figuraccia, ma in un momento del genere non intervenire in aiuto di quei stati che sono stati più afflitti mi sembra una cosa inspiegabile, e questo probabilmente porterà a una rottura, perché di solito l'Unione Europea si opponeva ad aiutare i stati deboli come l'Italia, la Spagna, la Grecia. Adesso però nella situazione coronavirus c'entra anche la Francia, che era uno dei stati principali, e quindi il legame, no, Francia-Germania ormai credo si sia deteriorato, e quindi questo porterà a conseguenze. Sì. E anche là noi ci chiediamo tutti, ma in Germania come mai il numero di morti è così inferiore rispetto a tutti gli altri? C'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non ci riusciamo a spiegare neanche qua in Inghilterra. Anche poi, perché continua. Volevo solo dire che poi mia moglie ha trovato che la percentuale in Svizzera è altissima di deceduti per il coronavirus. È una cosa che uno dice, sai, la Svizzera, la nazione migliore per la sanità, eccetera, invece il tasso di mortalità è altissimo per il coronavirus. È sempre quello il discorso, che il problema è che quanti ne conti prima che succede quello che purtroppo ti succede. La realtà è che la Germania è cresciuta in sordina, perché è cresciuta in sordina, però quasi in concomitanza con l'Italia. Cioè i casi della Germania, diciamo che si sono verificati molti, magari piccoli episodi, piccoli focolai, in concomitanza comunque con il nascere dei casi italiani, e quindi probabilmente c'è stata un'informazione un po' non falsata, non dico falsata assolutamente, però comunque c'è stata un'informazione anacquata, facciamo anacquata, sì, soprattutto all'inizio, perché vabbè, comunque... questo poi in realtà, come ho detto, il discorso numerico, cioè, ne parleremo veramente fra bocce ferme. Esatto, il problema di fondo è che come modello di propagazione, cioè, quindi parliamo un attimo di una questione strettamente scientifica, c'è una contraddizione globale. Allora, o c'è qualcosa che non ha funzionato in Italia o in Europa, la botta deve ancora arrivare, cioè, perché se no c'è veramente c'è una... Però posso... Vai, prego. Il problema dell'Italia è che è tutto concentrato là nella zona di Bergamo e Milano. Se si fosse espansa per tutta l'Italia la situazione sarebbe meno grave, perché il problema è che non ci sono posti letto sostanzialmente, perché là ci sono troppi ricoveri. Quello che, per esempio, le altre regioni, quelle meno esposte al discorso, cioè, io leggo in Sicilia i dati sono ottimi, non c'è praticamente nessuno. Ah, vedi, Roma stessa, che comunque è sempre una città di 3 milioni di abitanti, comunque con uno smercio, un giro anche a livello turistico importante. I primi due casi in Italia sono stati i due cinesi a Roma, eppure sì, ragazzi, ma dove, questo... cioè, qual è il... vai, scusa. No, ma di che, ci mancherebbe. Per questo io dicevo che la partita Valencia-Atalanta è stata decisiva. Determinante, dici. Perché sono tutti tifosi di Bergamo. Che fai? Raggiungi per la prima volta gli ottavi, i quarti di Champions, non festeggi. Purtroppo hai festeggiato. Insomma, cioè, negate bombe. infatti, non so se hai letto l'intervista del Papu Gomez che era la settimana scorsa, dove diceva noi ci sentiamo responsabili perché è esploso tutto dopo quello, no? Del resto d'altronde era pure il sistema confuso, il calcio continua, il calcio smette, pure qui, insomma, sai, cioè, un giorno il tempo dei processi purtroppo arriverà dopo. Adesso purtroppo dobbiamo stringere i denti e combattere questa che è veramente una battaglia. Senti, Vittorio Ilaria, qual è la percezione che hanno gli inglesi di questa cosa? Cioè, nel senso, quando parlate con la gente, no? Al di là del fatto che adesso comincia a diventare una situazione, però anche prima, che cosa pensavano gli inglesi di questo coronavirus? Vittorio, vai, inizia tu. Ma a parte che io ormai sono due settimane che non esco di casa, per cui non ho contatti col mondo esterno. Poi, e ringrazio al cielo di essere qua a Leeds, che c'è un po' di spazio, perché sennò a Londra, in appartamenti piccoli, mi sarei dato fuoco. Però lo uccide il virus, il fuoco, mi sa. Boh, dicevano anche il freddo, per questo non dovevo arrivare qua, ma sai, sono tutte non so, quelle le temperature che fermano un virus, insomma, no. Abbiamo sempre dei gradi importanti, insomma, sì, lo zero assoluto. Guarda, io ti devo dire che io portavo mio figlio a scuola e ogni volta cercavo di stare a distanza dagli altri e puntualmente mi venivano a parlare a 10 centimetri e io mi allontanavo, e alcuni lo prendevano seriamente, altri, ripeto, come ho detto in apertura, pensavano che fosse una semplice influenza o una cosa che colpisse solo i più anziani. Purtroppo non è così, stiamo vedendo che anche molti ragazzi vengono colpiti. Il grande timore è che qua il sistema sanitario è mediocre, per cui se dovesse esplodere un focolare come a Bergamo, qua sarebbe un disastro. Ripeto, qualcuno lo sottovaluta, qualcuno è piuttosto preoccupato. Quando sono stato in Nuova Zelanda nell'87, quei tre mesi, insomma, che è stato il primo impatto che ho avuto un po' con tra virgolette, no, la cultura tra virgolette britannica, chiamiamola così, e questa abitudine della gente di avvicinarsi per parlare, no? Parlare magari a bassa voce ma molto vicini, no? Che è una cosa che io non capivo, no? Poi ho visto che invece in realtà è un po' un'abitudine, un modo di fare questo, no? Beh, perché qua non urlano, no? Per cui parlano a bassa voce. È vero, voce. Noi siamo più, è vero, sì, è vero. L'ha detto, l'ha detto. Valeria, Ilaria, no, è il coronavirus, scusa. Sapete che io l'altra mattina mi sono svegliato, gli ho detto a mia moglie c'ho 37 e mezzo e lei era sbiancata, poi in realtà non era vero. E quando sarà vero saranno cazzi. Vai, corriti apotropaici, vai. Vai, Ilaria. Io dissi la percezione, cosa ne pensano gli inglesi, per quanto io abbia visto, non li ho visti preoccupati, cioè almeno tutte le persone che ho frequentato preoccupazione ne ho vista molto molto poca, Poi diciamo io ho iniziato ad usare Skype molto più che i contatti vis-à-vis, e comunque ho visto crescere un po' di preoccupazione, però comunque non lo so, non mi è sembrata, forse noi ci siamo molto impanicati, però quindi la differenza sembra più grande di quella che sia, però non mi sembra che si stiano facendo dei grandissimi problemi. Io c'ho una, no, invece aspetta, c'è una domanda extra che non avevo considerato, perché io seguendo moltissimi con Michela, mia moglie, seguiamo molti canali YouTube di gente che va in giro per il mondo fondamentalmente, di solito full timers italiani che comunque girano il mondo, che fanno magari ecco queste grosse traversate e passano praticamente 3-4 anni fuori dall'Italia, e che loro stessi stanno incontrando dei problemi dal punto di vista proprio, come posso dire, della reazione della gente al fatto che loro sono italiani, no? E questo apre un po' una nuova frontiera, un ritorno alla discriminazione verso, cioè della quale noi non siamo più abituati, no? Perché ormai noi siamo quelli che fanno discriminazione, no? Per certi versi, no? Quindi ritornare a New York dei fine 800 quando debuttavano dentro un'isola e state qui per 50 giorni e vediamo che succede, insomma, no? Sì. No, io lo noto, insomma, che se fai un colpo di tosse per strada un po' ti guardano male adesso, questo, però sì, diciamo quelle poche volte che sono uscita a fare la spesa è stata anche un po' una strategia per farmi strada grande. Per mantenere la distanza, perché come dicevo non si preoccupano più di tanto, allora dice andate per farli andare via, un colpo di tosse tipo insetticida. Da noi questo non succede oggi, perché io penso che se oggi Vittorio venisse a Roma e andasse, che ne so, alla Conad, non riconoscerebbe il suo paese. Io vabbè, sì. Che da noi si entra uno per volta e si sta a tutti a 2,5 metri di distanza. Si, cioè, fa la fila fuori, si entra 5 veramente persone. Una cosa coreana. Io devo dire che fa un po' impressione una cosa del genere. Però è comunque un modello indispensabile oggi, no? Nel senso. Ma posso farvi una domanda io? C'è stato anche in Italia l'assalto alla carta igienica? Allora, in Italia ogni volta, siccome c'è un periodo in cui Conte ogni venerdì sera parlava per fare l'aggiornamento e per estendere, diciamo, i decreti di chiusura. Ogni 2-3 giorni, qua ogni venerdì sera. Vabbè, ogni 2-3 giorni. E ogni volta che Conte parlava il giorno dopo non ci potevi andare, era inutile andare al supermercato, che erano vuoti i supermercati. Cioè questa panico, come se il problema fosse, oddio, mo ci bombardano, non arrivano più approvvigionamenti, no? Il problema è tutt'altro, insomma, però vabbè, dai. Che l'assalto c'è stato alla farina, al lievito di birra. Cioè quello. Ah, sì, mo' adesso c'è. Su ormai YouTube prolificano. Ormai è uno spaccio. Prolificano tutorial su come si fa il lievito madre lì. Moriremo tutti dei tentativi di fare lievito di birra. Non esagerare, dai. Poi c'erano i meme, non so se li hai visti, Lario, sul fatto che tutto vuoto tranne le penne lisce. Cioè, praticamente svuotavano tutto tranne le penne lisce. Poi le penne lisce i meme sulla mucchina. Sono un errore genetico. Cioè, una cosa che non avrebbe dovuto esistere, insomma, quindi. Michela, vai con l'ultima domanda, che così sti giovanotti. Allora, aspettate che mi sei un attimo impiantato il computer. Se vuoi la faccio io. No. Allora, ragazzi, quindi come vi siete organizzati voi a casa, lavorativamente e per la vita quotidiana, come famiglia? Vittorio. Parto io, vabbè. Allora, vabbè, io già lavoravo. Fai lo youtuber oramai, quindi diciamo. Io già lavoravo da casa, per cui a me la vita non è cambiata. È cambiata poco, certo. E il problema è che adesso ho tutti i figli a casa. I ragazzi, certo. Quanti ce n'hai? 5. Per cui. No, ho fatto la pasquata di calcetto. Quella era la stessa cosa. Però siamo organizzati, mia moglie è matematica, per cui ho organizzato tutto. Alle 9 mio piccolo fa educazione fisica con uno youtuber che ha avuto un successo strepitoso, una cosa incredibile, è finito anche sulla CNN. Poi vabbè, casa nostra è diventata praticamente una palestra, perché i miei figli fanno ginnastica, danza, ballo, eccetera. Ma fanno bene comunque. Sì, no, infatti tutti fanno i video, no, che quest'estate saremo tutti ciccioni, i miei figli saranno dei palestrati clamorosi, perché fanno solo palestra. E qua le lezioni online non ci sono, hanno dato dei siti dove prendere i quiz e le cose da studiare. Per cui sostanzialmente ci sono video YouTube dove fanno lezioni di matematica, un po' di educazione fisica. Mia moglie faceva l'insegnante, ovviamente non insegna più, per cui sta a casa. Ma devo dire che abbiamo avuto gli unici 3 giorni belli di tutto l'anno, per cui siamo stati un po' fuori e resistiamo qua. Cerchiamo di fare la spesa una volta alla settimana, ma non è facile, perché ovviamente i figli, beh, certo, Amazon, no, ma non è quello il problema è che anche qua c'è la fila, per cui quando c'è poca gente ci metti mezz'ora ad entrare nel supermercato. Cibo è razionalizzato, puoi prendere tipo 3 petti di pollo, e noi abbiamo detto noi 3 petti di pollo non ci mangiamo neanche tutti, per cui quella è la cosa un po' difficile. Ma vabbè, quello lo immagino, ma magari tipo spese su Amazon o Corrieri o quelli, o che ne so, supermercati che portano la spesa a casa, non c'è questo sistema. Allora, Amazon, secondo me, se quest'anno non mi manda un bel regalo per Natale, veramente smetto, perché ogni giorno ci sono almeno 3 consegne a casa mia. E qua è il famoso Ocado, ma noi è dal 15 marzo che stiamo provando a fare l'ordine su Ocado e non ci sono date disponibili. Per cui certo, la situazione è sempre la stessa, giustamente, non è che mascherine, guanti si trovano? Mascherine e guanti abbiamo già tutto, noi siamo organizzatissime, mia moglie disinfetta ogni pacco che entra in casa. Ma pure noi, sì, vabbè, ma quello è il minimo. Le scarpe si lasciano fuori, eccetera eccetera, per cui no, da questo punto siamo abbastanza sistemati, per fortuna. Senti, prima di passare l'aria devo fare una domanda: a voi da quanti anni è che siete nel Regno Unito? Io? Sì, allora, sì. Io 2013, credo. Ho tipo 7 anni. Però mi sono fatto un anno a Malta, nel mezzo. Ah, ok. Quindi i tuoi figli praticamente... cioè, praticamente sono più inglesi. Che... cioè, quelli più piccoli, magari. No, il piccolo sì, ha iniziato praticamente qua ad andare a scuola, all'asilo. Per cui lui... ovviamente parlano tutti italiano, perché a casa noi parliamo italiano... lui non scrive bene in italiano, però è italiano. Gli altri sono milanesi, purtroppo. Basta che non so tifosi dei milanesi. No, vabbè, quello piuttosto dormono sotto al ponte. Esatto. Ecco. Ilaria, invece tu come ti sei organizzata? Perché c'è un nostro amico comune che è in collegamento con noi, che dice che è importante mantenere, quando possibile, diciamo la routine quotidiana per abbattere lo stress, no? Perché sennò... la routine quotidiana, io metto la vestaglia, tolgo la vestaglia come facevo prima. No, scherzo. E per me è più facile, non ho figli, quindi insomma mi sto dedicando a un po' di cose che avevo arretrate, lavoro arretrato da fare, per cui in realtà la giornata passa anche abbastanza, anche troppo velocemente. Mi ero già fatta una playlist di video YouTube di ginnastica, avevo preparato, ma non ci sto riuscendo, non sto avendo... non ce la fa, poi c'è ancora troppo presto, diciamo, quant'è, 7-10 giorni di lockdown, ancora non mi hanno dato il tempo di arriverà di annoiarmi. Esatto, sì. Arriverà. Io ho scoperto di averci una moglie che cucina benissimo, pensate, dopo 10 anni di matrimonio. Ottimo, vedi, uno che deve fare. No, niente, sì, quindi sto cercando di mettermi un po' in pari con tanta roba arretrata, tanto lavoro arretrato che avevo da fare dal computer, da internet, cioè grazie a internet, serie arretrate, ovviamente. È un po' una vacanza forzata, va? C'è tanta ferie di stato, voglia di sì. Sì, se immagino l'estate mi viene un magone che non è difficilmente viene a tutti. Purtroppo, ragazzi, l'estate secondo me un po' ce la dimentichiamo. Questo è il mio terrore, perché noi l'estate tornavamo sempre in Italia, quest'anno potremmo tornare o saremo bloccati? No, non potremo. Ma dal punto di vista di tornare o no, quello è relativo, perché per quanto riguarda cioè l'andamento della malattia, se tutto va bene comunque ci sarà modo piano piano di girare, ma non per le ferie. Ma no, guarda, mi stai a dire una cosa che secondo me un po' di terrore. Dico che... No, non per le vacanze, sicuramente. No, ma in generale, secondo me, fino a giugno inoltrato. No, io parlo di luglio. Io a fine luglio. Lo so, però, Vittorio, tu devi considerare che quando si inizierà a tornare alla normalità, prima che tutte le cose rientrino in funzione, cioè, tu conta che riaprino comunque le frontiere. Cioè, noi, comunque, dal punto di vista aziendale, parlando con la nostra banca. E ci hanno dato la possibilità, credo anche supportati forse dallo Stato eccetera, di spostare praticamente i finanziamenti dell'impresa direttamente a ottobre del 2020. Vabbè, ma quello è perché l'impatto economico, anche quando le cose ripartiranno, non è che è immediato, ti rientrano subito i soldi. Probabilmente non prevedono una ripresa così immediata, insomma. Ma è ovvio, ragazzi, cioè, guardate che se voi venite in Italia, cioè secondo me per chi è fuori non è fa, anche se lo sapete perché parlate con i vostri familiari ogni giorno, secondo me non c'avete la percezione di quello che è. Vabbè, oggi. Ma magari i familiari li volevano tranquillizzare e tu li stai spaventando. No, non è una questione di terrore, è una questione di organizzazione, ragazzi. Cioè questa è una consapevolizzare. Esatto, consapevolezza, bravo, cioè, non bisogna sottovalutare, bisogna evidenziare il fatto che la situazione è grave, può essere grave, ma che non conviene farsi prendere dal panico, come non conviene farsi mai prendere dal panico. Quindi esatto, no, piuttosto che andare a aprire, sì, andrà tutto bene, sì, è tutto a posto, quando in realtà è una palla. Farsi questa, prendere da un ottimismo che in questo momento non c'è, cioè nel senso, no, è proprio una questione tecnica, non è una questione di spavento, di oddio l'infezione arriverà, passerà o roba del genere. È proprio che tecnicamente un blocco sistematico di un'intera nazione così importante come quello che stiamo vivendo in questo momento, che è praticamente totale, io penso che l'80% del nostro paese è fermo, non è facile riinnescare un meccanismo di ripartenza così rapido, cioè non è che domani basta, c'è più il coronavirus, vai, aeroporti aperti, tutto aperto, vai e vai. Cioè, ci vorrà un po' di tempo, insomma, ragazzi. Quindi mettiamoci tutti di buona volontà e vogliamoci bene, insomma. Vai, qua dovremmo aspettare comunque soprattutto il vaccino, perché comunque io un pochino sto leggendo dei paper, cioè degli articoli, e ci sono stanno spuntando dovunque vari modelli teorici sull'andamento. Cioè uno che leggevo oggi di uno studio congiunto, non mi ricordo cinese, non mi ricordo le nazioni coinvolte, comunque le università di quelle nazioni coinvolte, cioè comunque c'era la possibilità che si verificasse ad ondate, cioè che ci sarebbero un calo anche successivamente ai vari misure di lockdown eccetera, però si potrebbe ritorni anche d'inverno, comunque una certa ondata, però sicuramente saremo più preparati rispetto ad adesso, quindi che non ci sia una decrescita lineare e poi addio, quindi qua la soluzione tra virgolette sarebbe solo l'eventuale vaccino, che non arriverà però comunque. A proposito di vaccino, oggi ho visto un video dall'America che la Johnson & Johnson ha detto che ha trovato un pseudo vaccino che adesso ovviamente andrà testato, però sono molto fiduciosi. Ma guarda, io su questo sono abbastanza convinto che anche per ragioni di abbattimento dei tempi sperimentali, come abbiamo già discusso con Francesco in altri, per ovvie ragioni, cioè oggi non possiamo aspettare 4 anni un vaccino, perché questo è chiaro, e sono abbastanza convinto che ci veramente ci stanno a lavorare di brutto, e sono convinto che uscirà tra virgolette abbastanza presto. Scusate, devo salutare Ilaria perché dice se no gli mangiano la cena, e a questo punto io penso che più o meno se abbiamo un parere generale finale poi andiamo poi a salutare. Fa solo una domandina Ilaria, prima che andasse però. No, però vai, tutte e due, però in generale Ilaria, visto che siamo del mestiere, se anche diciamo si stanno non so l'equivalente dell'ordine oppure di una cosa del genere là, oppure in realtà se ci sono delle realtà di psicologi che si stanno un pochino attivando per fare più o meno ufficialmente, sia come impresa individuale oppure sotto il cappello di un ordine, un qualcosa di più istituzionale, di fare del supporto online gratuito o meno, per, perché noi ce n'abbiamo bisogno, questo volevamo dire. Sì, c'è supporto online, non è gratuito assolutamente, però sì, diciamo l'equivalente dell'ordine degli psicologi ha attivato una serie di guide, di linee guida per fare la terapia online criptata, quindi su software come Zoom e via scorrendo. Sì, per cui si sono convertiti al telematico, però si paga sempre. No, qua ci sono varie realtà felici in cui si fa anche a livello regionale, a livello di ASO, in cui lo stanno facendo gratuitamente, ma proprio una bella attivazione da parte dell'ordine. Sento che gli stanno portando via il piatto, Ilaria. Vabbè, Ilaria, io ti ringrazio. Tu sei sempre preziosa e ti richiameremo per parlare male di Boris Johnson, naturalmente. Vai, sì, ragazzi, è un piacere, grazie. Ciao, bella. Intanto a Vittorio invece gli chiedo, prima di salutarlo, ma il principe Carlo poi è vivo o è morto? È vivo e in auto... self-isolation. No, perché quando uno dice sta in isolamento, in auto-isolamento, alla fine non si viene più a sapere, la gente si dimentica. Sparisce. No, è che oggi davano notizie della sua guarigione. Ma addirittura, esagerata. Addirittura sembra presto. Ma anche Boris Johnson avrebbe dichiarato che fa 7 giorni e poi torna al lavoro. A me mi sembra un attimino presto per... No, quei protocolli nazionali è sempre sui 14 giorni, è una stima adeguata per una quarantena. E poi non è una quarantena stimata precisa, comunque si indicano 15 giorni di incubazione in realtà, poi più o meno. Vabbè ragazzi, chi se ne frega, diciamo, del virus in sé, l'importante, allora, la cosa importante è state a casa, quello è la cosa. Comunque Vittorio, con 5 figli tu sarai il nostro eroe, a casa con una moglie e 5 figli io le capocciate. però lui abita in campagna, quindi c'ha sicuramente il giardinetto, c'ha tutto quella concezione un po' british delle, No, il problema è che ieri nevicava qua, per cui sai, il giardinetto ma pure in Italia ha nevicato. secondo me Vittorio, se vuoi sapere la mia opinione, il pianeta non era pronto a questo disinquinamento. Cioè, che è tutta st'aria fresca? E non ci ha capito più niente. Allora ha buttato giù neve, capito? Insomma, un po', perché veramente da noi oggi tu respiri aria pulita in giro. Cioè, non, è una cosa incredibile. Cieli azzurri incredibili, non c'è la cappa su Roma. Cioè, ma tu non capisci. Cioè, è un altro mondo, è una cosa meravigliosa. Insomma, vabbè, dicono che a Pasquetta sarà un bel tempo, per cui. Beh, è importante. Una volta si prendeva le fave col pecorino e si andava fuori porta, capito? Adesso che non potete andare via, Pasquetta sarà fantastico. Sì, vabbè, poi capirai. Vabbè, Vittorio, io ti ringrazio tantissimo. Abbiamo fatto un po' questa conversazione. Vedi, noi siamo molto friendly, diciamo, come approccio. Non è che ci mettiamo lì a fare i seriosi a essere un po' troppo accademici, ci piace un po' parlare con le persone, cercare di capire, insomma, quali sono le loro opinioni, le loro percezioni rispetto a quello che è il mondo che li circonda, insomma, che in questo caso con voi ovviamente si tratta dell'Inghilterra, che è lontana comunque da noi. Oggi da noi è lontano tutto, però in questo momento in particolare è lontana, insomma. Quindi io ti ringrazio, faccio ancora pubblicità, quindi Vittorio Campanile lo trovate su YouTube, proprio cercando Vittorio Campanile lo vedete, insomma, se siete appassionati di calcio e siete anche un po' tifosi della Lazio, va bene, iscrivetevi, attivate la campanella, perché Vittorio è lì. Ma poi so che Vittorio ha un blog, comunque è un giornalista sportivo, quindi segue, insomma, vari, anzi ha anche un podcast della Lazio in inglese, quindi giusto? Assolutamente sì. Quindi vabbè, insomma, cercatelo e sicuramente lo troverete. È stato un piacere, perché comunque... insomma, parlare con una persona comunque asciutta e lucida come te è sempre, che sennò noi ci facciamo prendere un po' dalla deriva. Guarda che non c'ho tanti soldi sul conto, No, non lo so, però tu, prima quando tu mi hai detto il commercialista, i 50.000 euro, roba del genere, ho detto vabbè, allora tu sei fuori scala da sta cosa. Scherzo, naturalmente. Va bene, un bacione a te. Grazie a voi. Un abbraccio a tutta la famiglia, chiaramente. E ringrazio anche Francesco. che è stato con noi, Francesco, insomma, ci ritorniamo alla prossima diretta. Ormai mi tocca fare il quarto alla briscola perenne, proprio così succede, mi sento un po' nuovo, bene a fare il quarto che mi c'è manca, guarda, oh, babbo. Ma sono contento comunque. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, ciao, ciao. Ciao Vittorio.